giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vertenza Barzila, il governo ha escluso il gruppo dei fondi del PNRR dopo la decisione di chiudere il sito di Bagnoli della Rosandra, una misura che anche la regione aveva subito invocato dopo l'annuncio degli esuberi. Come a fine agosto, bel tempo e una serie di appuntamenti hanno fatto popolare la città di Trieste di turisti come mai visti in questo periodo e affollare le spiagge come a grado. Un'azione di controllo interforze ha passato al settaccio Borgo Stazione Udine, qualche risultato si è visto. Il pubblico entusiasta delle grandi occasioni per il celebre archeologo egiziano Zahi Hawass, ieri a Trieste per parlare dei misteri e delle meraviglie del suo paese. 0-0, questo è il risultato di Cremonese-Udinese giocato nel pomeriggio di ieri, che per certi versi lascia l'amaro in bocca ai tifosi bianconeri. Vittoria doppia per le compagini regionali che militano in Serie C, 5-1 del Pordenone a Crema, mentre la Triestina batte a Manto. Il Mantova 2-1 a Rocco. Sorridono anche le due compagini regionali del basket, entrambe vittoriose, Pallacanestro Trieste contro Napoli e APU Udine contro Rimini. Alle 7:19 minuti e 20 secondi di lunedì 31 ottobre, un cordiale buongiorno da Andrea Saulo e Armando Mucchino, voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la pagina del tempo, cielo sereno poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 6, Trieste 14 gradi, mare calmo con temperature di 20 gradi e mezzo, Udine e Gorizia 10 gradi, Pordenone 9 gradi e mezzo, Forni di Sopra 13 gradi 5 decimi, Tolmezzo 12, Piancavallo 10 gradi e mezzo, Sappada 6 gradi e 5 decimi, Tarvisio 5 gradi, in quota sul Monte Lussare e sullo Zongolan 13 gradi e 5 decimi, tornando sulla costa Grado 15, Lignano 16 gradi, temperatura del mare 20 gradi. Queste invece le previsioni per questo inizio di settimana. Oggi il cielo in genere sereno e poco nuvoloso per lievi velature ad alta quota e sarà ancora molto mite per il periodo, specie durante il giorno. Nelle ore notturne saranno possibili locali foschie e qualche banco di nebbia sulla bassa pianura, specie nel Pordenonese. Partiamo dallo stop ai fondi destinati a Varsila nel piano di ripresa e resilienza, stop deciso dal Ministero, lo avete sentito dai titoli, una misura che anche il governo regionale aveva invocato dopo l'annuncio degli esuberi. La decisione del MISE di sospendere e forse cancellare per sempre i fondi del PNRR per Varsila è una scelta che i sindacati condividono, ma che rischia di avere ripercussioni se non ci saranno politiche attive per sostenere l'industrializzazione dell'area, aiutando un eventuale compratore. Il ministro Giorgetti, nel frattempo passato all'economia nel nuovo governo, ha tolto il finanziamento come ultimo atto da titolare del MISE, 34 milioni di euro destinati specificatamente al sito triestino per la ricerca e lo sviluppo di propulsori di ultima generazione, meno impattanti per l'ambiente, ovvero il reparto non toccato dai licenziamenti di luglio, poi cancellati dal Tribunale del Lavoro. Per l'RSU Fabio Kanidicek è giusto sospenderli, anche se andrebbe dato il beneficio del dubbio a Varsila fino alla presentazione del piano industriale. Senza i soldi del PNRR, il rischio è che si acceleri la chiusura dei reparti produttivi di Bagnoli e che si blocchino gli investimenti in ricerca e sviluppo, decretando così una sentenza per tutto lo stabilimento. Se ci fosse un cambio di rotta, l'azienda andrebbe sostenuta. Sarebbe stato meglio forse condizionare l'arrivo dei fondi a un piano industriale che vincolasse l'azienda a produrre sul territorio. Da Varsila intanto continua la fuga di chi non si fida e pensa al proprio futuro. Sono una quindicina gli ingegneri e i tecnici nei settori della produzione e dell'assistenza che hanno trovato collocazione in altre aziende del territorio. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le temperature più che miti di questi giorni e una serie di appuntamenti tra i quali spicca il Festival dei Caffè stanno riempendo Trieste di turisti che continueranno ad arrivare anche nei prossimi giorni. Un ponte di ogni santi che sembra Ferragosto, temperature decisamente miti, traffico intenso, folla a barcola per godersi questo insolito sole di fine ottobre e tutto esaurito negli alberghi. Un momento favorevole che in realtà era cominciato già nel corso della settimana, grazie all'afflusso di persone provenienti da tutto il mondo portato dalla Fiera Trieste Espresso. Alex, benvenuti, albergatore. L'affluenza è stata totale, a quanto mi risulta sostanzialmente non c'erano camere libere a Trieste dal 25 fino al 31. Una pluralità di fattori determinano questo. Il 26 era festa nazionale austriaca, che evidentemente, essendo primo mercato per Trieste, ha impattato molto. La Fiera del Caffè, il Ponte di Ognissanti e un meteo evidentemente eccezionale. A portare movimento in città è anche la presenza delle navi da crociera, come sottolinea Francesca Pitacco dell'Associazione Guide Turistiche. I visitatori, come di consueto, arrivano prevalentemente dai paesi vicini, Austria e Germania, oltre che naturalmente dall'Italia. Secondo il presidente di Federalberghi Trieste, Guerrino Lanci, il momento favorevole è destinato a continuare nelle prossime settimane. Già arrivate le prime prenotazioni in vista della mostra di Banski, che si aprirà il 25 novembre, e un effetto positivo sulle attività ricettive anche dai pacchetti promozionali Treno più Albergo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E con le temperature di questi giorni, in tanti, a grado, hanno approfittato della domenica per un tuffo al mare per trascorrere la giornata in spiaggia. Sentiamo. Le note dei DJ si rincorrono dal porto alle spiagge, alberghi esauriti, ristoranti sold out, appartamenti a peso d'oro con rialzi anche oltre il 30%, stimati sull'isola più di 300 camper con i ritardatari in continua ricerca di parcheggi e qualcuno anche in seconda fila, barche attraccate un po' dappertutto, flusso costante di cicloturisti sull'Alpe Adria, molti arrivano direttamente alla spiaggia per un tuffo. Il mare è piacevolmente caldo, quello che ci vuole dopo una pedalata impegnativa. Sicuramente il sole, la tranquillità, insomma, grado io la frequento, però come offerta sicuramente si potrebbe migliorare. Mi riferisco soprattutto al polo termale. In attesa del nuovo polo, forse anche mantenere la piscina poteva essere un'opportunità. Intanto la GIT Impianti Turistici con il presidente Marin premia la giovane Angelica Rosi di Trieste come promoter dell'estate. La sua simpatia comunicativa l'ha resa protagonista sulla spiaggia e sui social. Ich komme von Salzburg in Österreich. Vengo da Salisburgo in Austria e non ho mai visto un ottobre così, ma ho saputo che tra una settimana chiuderanno alberghi e ristoranti. Con questo caldo non mi vengano a dire che è per i costi del gas di riscaldamento. Dopo una giornata così meravigliosa di sole, direi proprio di pensare positivo. Direi che mi sento come il protagonista di Aspettando Godot. C'è una situazione in divenire e a quale non conosciamo ancora l'esito finale. Certo che guardando questo afflusso straordinario forse vale la pena pensare a un futuro diverso da quello che molte Cassandre immaginano. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Promuovere all'estero la capacità di innovazione del Friuli Venezia Giulia è fondamentale per favorire gli investimenti. Il nostro territorio oggi ricopre un ruolo strategico per la presenza di un sistema logistico multimodale che sta investendo su tecnologie all'avanguardia come la comunicazione quantistica e su un solido comparto della ricerca scientifica capace di dialogare con il mondo dell'impresa. Inoltre sta investendo con Slovenia e Croazia sulla realizzazione della cosiddetta Hydrogen Valley. A dichiararlo è stato da Washington il presidente regionale Massimiliano Fedriga, impegnato negli Stati Uniti in una missione istituzionale durante la quale ha incontrato importanti stakeholder economici americani e italiani. Alle 7.26 apriamo le pagine della cronaca. Intorno alle 2.30 di oggi, i volontari della squadra comunale di protezione civile di San Giorgio di Nogaro sono intervenuti lungo il porto canale di San Giorgio, in zona Ossacorno, per la segnalazione di uno sversamento di sostanze inquinanti avvertite inizialmente per un forte odore di gasolio. Sono state posizionate in acqua 6 panne per contenere lo sversamento. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli. Le operazioni sono riprese questa mattina all'alba per riuscire a comprendere che tipo di gravità presenta la situazione e che tipo di sostanza si tratti. Schianto tra due auto nella notte di sabato nel Trevigiano, tra San Vendemiano e San Fioro, un morto, un ferito il bilancio, a perdere la vita è stato Paolo De Poli di Azzano Decimo, 61 anni, operaio che sarebbe andato in pensione a fine anno. Ferito l'altro conducente, un 25enne albanese, risultato positivo all'alcol test, una mancata precedenza la probabile causa dell'incidente. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, su disposizione del questore di Udine, personale interforze di polizia e carabinieri hanno svolto controlli straordinari in Borgo Stazione. L'imponente dispositivo di forze di polizia messo in campo ha visto l'impiego di oltre 70 uomini. Sono stati identificate 403 persone, controllati 115 veicoli e 22 esercizi commerciali. Un cittadino iracheno è stato denunciato per possesso di un coltello occultato all'interno di uno zaino. Altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un cittadino marocchino per la violazione dell'ordine di abbandonare il territorio italiano a seguito di provvedimento di espulsione, mentre un pakistano per ingresso a soggiorno illegale sul territorio nazionale. Quattro cittadini stranieri, poi di origine marocchina, pakistana e tunisina, sono stati sanzionati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti e un cittadino straniero sanzionato per ubriachezza molesta. La stazione di Trieste del soccorso alpino è intervenuta a fianco dei vigili del fuoco per soccorrere un 85enne caduto da una scala mentre raccoglieva le olive nel suo terreno lungo la strada costiera nei pressi del ristorante Tenda Rossa. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari dell'ambulanza, l'uomo, che ha subito seri traumi alle schiene, è stato trasportato con il toboga dei vigili del fuoco lungo una scalinata ripida mentre i soccorritori del soccorso alpino facevano sicurezza al trasporto in atto con una corda. E i carabinieri di Udine sono intervenuti intorno alle 4 di ieri mattina in supporto alla polizia per sedare una rissa scoppiata, per motivi ancora non noti, tra un gruppo di una trentina di cittadini stranieri. Il fatto è avvenuto in via dei Prati, all'area antistante di un locale. Alcuni tra i partecipanti alla colluttazione hanno subito ferite alle mani, ma non si sono fatti ricoverare. I partecipanti alla rissa sono stati denunciati a piede libero. Quattro giorni dedicati ai prodotti tipici della Carnia, il filo dei sapori, la rassegna agroalimentare di Tolmezzo che ha celebrato tradizione e territorio in una splendida giornata di bel tempo. Più di 60 stand, laboratori, degustazioni e giochi per bambini. Il filo dei sapori, la rassegna agroalimentare di Tolmezzo, il capoluogo della Carnia che celebra la tradizione e il territorio, si è chiusa oggi in una domenica segnata dal bel tempo che ha attirato numerosi visitatori. Quattro giorni dedicati ai prodotti tipici della zona, dai chiarsons al frico, dai formaggi alle birre tradizionali fino al tiramisù, che sarebbe nato proprio qui 70 anni fa. Un lungo filo che collega il sapore al produttore e che conduce così lungo tutta l'economia dell'agroalimentare. Per i bambini è l'occasione di imparare, con un gioco al Museo Carnico delle Arti Popolari, come si munge il latte. Per tutti è un modo per conoscere, grazie agli incontri formativi organizzati dall'ERSA, le nuove sfide dell'agricoltura e della frutticoltura, in un'epoca in cui il cambiamento climatico sconvolge gli equilibri e la ricerca sulle piante sperimenta nuove strade. Michele Fabbro, Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia. Le conserviamo, ma anche le testiamo in un'ottica di frutticoltura moderna attraverso l'utilizzo di portinnesti clonali resistenti per verificare come questo patrimonio possa nel futuro tornare in auge, funzionale e permettere alla frutticoltura, diciamo storica, di evolvere in un'ottica di sostenibilità. È insomma un filo che, dispiegandosi nelle strade del centro di Tolmezzo, riannoda tradizione e modernità e ha lo sguardo rivolto al futuro. Il tutto raccontato in una festa, la cui lezione più importante è che mangiare non è un gioco. Tolmezzo, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 7.31 apriamo la lunga pagina dello sport con il calcio di Serie A. Un punto rimediato con il pareggio con la Cremonese in trasferta è meglio di niente, perlomeno muove la classifica, ma forse i tifosi dell'Udinese si aspettavano qualcosa di più contro l'ultima della classe. Friulani ora settimo in classifica, quota 22 raggiunti dalla Juve. Non va oltre lo 0-0 l'Udinese in casa del fanalino di coda Cremonese. La squadra di Sottil era partita forte con Deulofeu dopo pochissimo a sparare addosso a Carnesecchi. L'Udinese del primo tempo è stata imprecisa, prima con Lovric e poi con un cross dello stesso sloveno, sul quale però Udogi è arrivato poco convinto, mandando a lato. Per la neopromossa, due le conclusioni di Okeke, senza nessun pericolo particolare per Silvestri. Nella ripresa l'Udinese, dopo l'infortunio di Lovric, è scesa un po' in convinzione. Cremonese vicina al gol con buon aiuto dopo un dribbling. Mezzo miracolo di Silvestri che devia in corner. Nel finale due le occasioni per l'Udinese. Samardžić al 37esimo si è fatto largo tra le maglie grigiorosse con un bel dribbling, calciando però centrale, mentre proprio poco prima del 90esimo Deulofeu, alla prima prestazione stagionale negativa, non è riuscito a trovare il colpo del KO da posizione favorevolissima. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma sentiamo le parole di mister Sottil a fine incontro. Abbiamo avuto un predominio importante primo tempo eravamo, penso siamo avuto 5-6 palle gol e delle situazioni dovevamo essere più precisi, quindi abbiamo avuto un predominio totale il primo tempo. Cremonese si è vista poco e lì dovevamo essere sicuramente un po' più freddi, un po' più lucidi nel finalizzare quello che abbiamo creato, però sono assolutamente contento della partita che hanno fatto i ragazzi, che poi non è scontato venire qui in questa categoria, sulle partite sono tutte difficili, quindi non è che era scontato venire qua e passeggiare a Cremona. Io credo che abbiamo subito veramente poco, abbiamo creato tanto e poi l'ultimo contropiede, quella è una scelta tecnica, quindi capita. Io sono convinto che per le qualità che abbiamo prima o poi arriveranno di nuovo le stoccate vincenti, ma ripeto, subito poco, difeso bene, con ordine, creato, condizione fisica ottima, quindi andiamo avanti su questa strada. Doppia vittoria per le squadre della regione nell'undicesima giornata di Serie C. Il Pordenone si impone 5-1 a Crema in casa della Pergolettese, mentre la Triestina centra il secondo successo in campionato battendo il Mantova 2-1 al Rocco. Il servizio. Parte subito forte il Pordenone, che passa in vantaggio al 12° grazie a un autogol, cross su punizione di Burrai e deviazione di Arini direttamente nella propria porta. Il pareggio arriva 2 minuti dopo, con un gran tiro da fuori di Guio Villanova. Al 30° i ramarri tornano avanti, Zammarini serve in area a Candellone che supera Soncin con un destro potente. Passano 5 minuti ed è Dubicas a insaccare al termine di una bella azione in area. Il primo tempo si chiude sul 3-1 per i neroverdi. Nella seconda frazione è sempre il Pordenone a tenere in mano il pallino del gioco. Al 9° Dubicas scarica un sinistro dal limite che termina sopra la traversa e 10 minuti dopo è Zammarini a siglare il quarto gol con una bella girata di destro. Altri 2 giri di lancette e la Pergolettese resta in 10 per l'espulsione di Guio Villanova. È il preludio al gol del definitivo 5-1 che arriva al 27°. Su un cross dalla sinistra di Ingrosso, Piscopo con un esterno destro al volo batte Soncin. Pordenone che arriva al secondo posto in classifica con 20 punti, in condominio con Novara e Lecco dietro a Renate capolista. Sale invece a 10 punti la Triestina, che fra le mura di casa batte 2-1 il Mantova, soffrendo nel finale dopo un ottimo primo tempo. Neanche 60 secondi ed è dei Lombardi la prima occasione con l'ex Mensah, tiro parato dal portiere Pissari. Al 15° il vantaggio degli alabardati. Dopo un'azione prolungata, Paganini, da posizione defilata sulla destra, inganna con un pallonetto il portiere avversario Chiorra, impreparato fuori dalla linea di porta. Per il raddoppio bastano 5 minuti, al 20° azione sulla sinistra, cross di Felici e deviazione vincente di Ganz, che di nuca trova la seconda rete stagionale. Nel secondo tempo la Triestina cala e viene fuori il Mantova. Al 57° occasione per Piero Bon parata da Pissari, ma è un rigore generoso a 4 dalla fine, realizzato da Rodriguez, a riaprire il match. L'ultimo brivido arriva al 90° con Ceresoli che da lontano centra il palo e permette agli alabardati di cogliere la seconda vittoria stagionale. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma sentiamo ora i commenti a fine gara dei due allenatori di Carlo e Pavanel. Eravamo molto arrabbiati perché non meritavamo assolutamente di perdere contro la Feralpi. I ragazzi in settimana abbiamo lavorato molto con i ragazzi sulla finalizzazione, sul gioco, perché dobbiamo insistere su quello, e oggi è stata veramente una prova di grande personalità di una squadra che voleva la vittoria, arrivata contro un'altra squadra che non avevamo perso in casa, quindi è un valore diverso, secondo me, questa vittoria, che dà uno spunto a tutti quanti noi che quando giochiamo con questa intensità, con questa aggressività, abbiamo dei giocatori che fanno male agli avversari. Usciti dall'incubo è troppo presto, dobbiamo dare continuità a questa vittoria. Di sicuro per 60 minuti la squadra ha fatto molto bene, primo tempo molto bene, e poi c'è stato un logico ritorno degli altri con un rigore molto generoso che ha riaperto la partita, purtroppo, perché eravamo sufficientemente in controllo. Quindi ci sta anche, avendo speso tanto e avendo fatto un certo tipo di lavoro, mi aspettavo di avere degli ultimi minuti un po' in difficoltà, però credo che sia normale quando vinci 2-0, l'avversario si sposta in avanti, butta le palle lì e quindi qualcosina in più ha creato, ma non cose pericolose per il calcio di rigore, che secondo me è assolutamente mentale. I dilettanti della Serie D, sconfitta casalinga per il Chiarin Smuzzane, battuto 2-1 dal Cartegliano, sconfitta anche per il Torviscosa che perde 2-0 al Levico Terme, in classifica Chiarlis 12° e Torviscosa in piena zona di retrocessione. Per il calcio femminile Tavagnaco vince contro la Puglia Trani con Diaz Ferrer all'ultimo assalto. Dopo tante occasioni sbagliate, nell'azione che chiude la gara l'attaccante catalana insacca di testa su respinta di Raicu su tiro di Lico. Siamo al basket, la Serie 1, prima vittoria, più che medicina, un attacco alle coronarie dei tifosi, la pallacanestro Trieste sbanca, Napoli a supplementare nel posticipo serale, 92-95 in una partita pazza e lascia dopo 5 turni il fondo della classifica e lo zero nella casella dei punti. L'inizio però ancora una volta non è dei migliori, con Williams che fa il padrone in area e i biancorossi che scivolano subito sotto i 12. La reazione arriva nel secondo periodo grazie ai rimbalzi e all'agonismo di capitan Lodovico De Angeli e canestri di Gaines. Nella ripresa la squadra di Legovic si porta avanti e pura fatica riesce a contenere i partenopei che perdono molti palloni e smettono di segnare da 3 punti. Nel finale di partita Trieste però sbaglia molto dalla lunetta e concede il canestro del supplementare a Michinò per l'80 pari. Nell'overtime sale in cattedra Bartley che però anche lui sbaglia il tiro libero della sicurezza concedendo a Stewart il tiro del potenziale pareggio che però esce a fil di sirena. Miglior marcatore Gaines con 29 punti. Per il basket di A2, l'Apo Old Wild West Udine torna alla vittoria battendo in trasferta per 75-65 Riviera Banca Rimini. Per la squadra di coach Bonniccioli è la quarta vittoria in campionato, una vittoria più che meritata per i bianconeri dopo lo stop di 6 giorni fa in casa con 100. In evidenza nell'Apo Sherrill con 18 punti, Mussini 13 e Briscoe 9. Prossimo appuntamento domenica al Paracarnera con il big match contro la Fortitudo Bologna, sconfitta sabato a Cividale dall'altra regionale. Medaglia d'oro per il Monfalconese Gerardo Altieri De Grassi nella specialità coppie danza nella categoria juniores ai campionati mondiali World Skate Games che si stanno svolgendo in Argentina a Buenos Aires dal 24 ottobre al 6 novembre. Chiusa la pagina dello sport alle 7:39:28, cambiamo argomento. Tra 8 e 900 in Friuli c'erano 2 innovative linee di trasporto pubblico, una che da Udine collegava Tarcento, via Tricesimo, e una più antica, un tram a vapore che partendo dal capoluogo raggiungeva Fagagna e San Daniele, soprannominata affettuosamente la Vacchia di San Daniele. E quest'ultima l'ex direttore dei Civici Musei e della Biblioteca Ioppi di Udine ha dedicato un volume recensito in questi giorni a livello nazionale. Se ne sta occupando anche la stampa nazionale. Il Sole 24 Ore gli ha dedicato una recensione a piena pagina. Stiamo parlando del volume di Romano Vecchietta, già direttore dei Civici Musei e della Biblioteca Ioppi di Udine, il libro Quel lento viaggio in collina, storia del tram Udine-Fagagna-San Daniele. Siamo a cavallo tra 800 e 900. Di cosa stiamo parlando? Precisamente siamo nel 1889, il 29 settembre di quell'anno non si inaugura la prima tranvia extraurbana che da Udine avrebbe raggiunto San Daniele del Friuli. Un tram per l'epoca molto innovativo che riusciva a più che dimezzare i tempi di trasporto tra San Daniele e Udine rispetto alla vecchia diligenza. Per i 29 chilometri però ci voleva quasi un'ora ed era stato ribattezzato anche la Vacchia di San Daniele. Perché? Questa goffa locomotiva cabinata che trainava questo trenino spesso usciva dai binari e la gente malignamente l'aveva soprannominata la Vacce proprio perché amava bruccare l'erba dei prati circostanti la ferrovia. C'era un'altra dimensione del trasporto pubblico locale in quei tempi, anche se questo trenino all'inizio era un trenino per ricchi. Era l'unico mezzo di trasporto che poteva collegare decentemente questi paesi dell'Interland udinese. Era utilizzato chiaramente dalle classi abbienti, soprattutto nei primi anni. Un libro voluto da Chiase Coccella, l'Ecomuseo della Gente di Collina. La tradizione culturale di Chiase Coccella è nota a tutti e grazie appunto a Elia Tomai, che è il direttore, si pensò già 2 anni fa di realizzare questo volume e una mostra. In mattinata alle 11 sarà inaugurato il museo sulle attività doganali di Coccau a Tarvisio. La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco del comune confinario Renzo Zanette e del primo cittadino di Arnoldstein Reinhard Antolich, una struttura multifunzionale capace anche di fungere allo stesso tempo da infopoint turistico a servizio della rete ciclistica della Carinzia e del FLAG. Il museo, costato circa 900.000 euro, coperti in massima parte da fondi mondi europei, racconta del Valico e di questo territorio a cavallo di due nazioni di cultura. Ne abbiamo parlato con Antonio Ferraioli, che insieme alla cooperativa Pluriservizi Valcanale gestisce il nuovo museo. Coccau era il valico più importante dopo il Brennero per i passaggi verso i paesi Austria, Slovenia, tutti i paesi dell'est. E quindi abbiamo pensato, all'interno di un progetto finanziato da fondi europei, di valorizzare questa realtà di Coccau, appunto passando al Museo della Dogana. Vorrei raccontare la storia della Dogana, perché chiaramente, essendo un valico molto importante, c'era un giro molto importante di merci, di persone, quindi racconta un po' la storia di questi confini che si sono spostati nel corso degli anni, insomma, dall'impero austro-ungarico, poi il Regno d'Italia, poi la Repubblica, e quindi ci sono tutto quello che fa parte della storia della dogana, quello che veniva requisito, quello che passava, quello, la storia delle persone che hanno abitato anche nella zona, perché insomma venivano anche da fuori. Quindi è una storia di un territorio e di questa nuova funzione che viene a ricoprire questo museo, non più un confine ma un passaggio, e quindi raccontiamo questa storia. È un qualcosa di molto particolare, un museo della Dogana, giusto? In realtà non ce n'è solo in Italia, e in Europa ce n'è soltanto uno in Svizzera, quindi è un unicum che ricopre un certo interesse. Tant'è che anche l'Agenzia del Monopolio delle Dogane si è dimostrata subito molto interessata a questo museo, perché racconta anche la loro storia. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Appassionati di Egitto e non solo hanno accolto ieri tra gli applausi il celebre archeologo egiziano Zawi Hawass a Trieste per parlare dei misteri e delle meraviglie del suo paese. Tutti pazzi per l'antico Egitto. Posti esauriti con largo anticipo per la conferenza di Zawi Hawass, organizzata nell'ambito della manifestazione Un mare di archeologia. L'archeologo ed ex ministro egiziano ha spiegato così questo grande interesse per l'antico Egitto. If you ask any child in Italy and you say the word Egypt, se chiedi ad un bambino in Italia dov'è l'Egitto, ti parlerà delle piramidi di Khufu, la Sfinge, le mummie, il Golden Boy Tutankhamon. Questo è ciò che affascina le persone ovunque ed è per questo motivo che c'è questo grande interesse per l'antico Egitto. Al pubblico Zawi Hawass ha raccontato le sue principali scoperte e i progetti ai quali sta lavorando. Sto ricercando la tomba della regina Nefertiti e della figlia attraverso il DNA, grazie al supporto del National Geographic. Come non citare la mia ricerca molto importante inerente a Cleopatra nei pressi di Alessandria. Spero nella scoperta della tomba di Cleopatra e Marcantonio, che lega gli italiani agli egiziani. Ma fra gli impegni del celebre egittologo c'è anche quello di riportare in patria alcuni dei principali tesori archeologici del suo paese, attualmente esposti nei più importanti musei del mondo. Last week I put a petition in the internet. La scorsa settimana ho lanciato una petizione su internet per chiedere la restituzione della stele di Rosetta dal British Museum. Inoltre, il bassorilievo dello zodiaco è stato rimosso dal soffitto del Tempio di Hathor a Dendera da un ladro francese e dato al Louvre. Adesso è arrivato il momento che questi due reperti vengano esposti presso il Grand Egyptian Museum, che verrà aperto il prossimo anno. Successo per la manifestazione, come spiega Davide Casali dell'Associazione Musica Libera. È stata veramente una festa dell'archeologia e della storia per tutti. Siamo molto felici, speriamo il prossimo anno di replicare. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla rassegna stampa, la prima pagina del Piccolo di Trieste, la fotonotizia sui prezzi delle case in Serbia, con i prezzi gonfiati dagli investimenti russi, nell'unico paese dove possono farlo liberamente. Poi il titolo principale sul nazionale, bollette, sicurezza, Covid, ecco i primi passi del governo Meloni. La fascia della cronaca locale, invece, la volta sotterranea del Rio Martesin da rifare, Roiano, mesi di disagi. Bagnanti in spiaggia come d'estate, ma da venerdì si cambia, il titolo invece sulla domenica dei triestini a Barcola. In regione in pensione 2.165 lavoratori prima di aver compiuto 60 anni, l'uscita dal mondo del lavoro resa possibile da provvedimenti come quota 102 e opzione donna. Nella cronaca, l'ex scuola in Appli di Giarizzola all'asta per mezzo milione, l'Agenzia del Demanio rimette sul mercato il vasto compendio abbandonato che vanta una superficie di 3.400 metri quadrati coperti e 12.000 scoperti. Lo sport, la Triestina si libera e chiude il digiuno, e invece basket, Trieste a cuore grinta, difesa e sbancata Napoli. Ci sarebbero oltre 2.000 under 60 in regione pronti ad andare in pensione anticipata grazie a provvedimenti come quota 102 opzione donna. Questo è il titolo principale della prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, oggi in edicola. Due richiami in prima rimandano ad altrettanti articoli nelle pagine interne sul rapporto IDOS che riporta come in regione ci siano sempre più stranieri, sono quasi il 10%, e sulla missione economica del governatore Federica negli Stati Uniti. Notizie di centropagina dedicata al pareggio dell'Udinese di ieri contro la Cremonese, Udinese che il giornale di Viale Palmanova definisce sprecona. A fianco invece per il basket la vittoria dell'Appo in trasferta, titolata l'Old Wild West ha più talento, Rimini alza bandiera bianca. Tre richiami anche nella colonna di destra, con in alto il sindaco di Udine Fontanini che vuole garanzie dagli alleati per le prossime comunali, mentre i Dem sono a un bivio se scegliere Venanzio o De Toni. Sotto i disagi dei cantieri stradali in Carnia che bloccano studenti e pendolari, e poi la morte di Giancarlo Pedronetto, il politico che fondò la Lega Autonomia Friuli. L'apertura di Gorizia, il piccolo, e sulla zona commerciale Sant'Anna, dall'arredamento ai locali asiatici, le nuove aperture. Il gruppo Lube sceglie l'area che ospitò la Piaggio, si moltiplica l'offerta alla periferia della città. Sempre nelle pagine di cronaca, albergo impiegati, sorgerà il museo Cividini e Bianchi, saranno allestiti gli studi del medico e del fotografo, oltre a totem multimediali. Parliamo ovviamente di Monfalcone. Dalla provincia, naturisti sull'Isonzo, il sindaco di Turriaco approva i cartelli. Lo sport, invece, Trail del Castello, più di 250 in gara tra città e Slovenia. Il titolo principale del dorso del Gazzettino dedicato al Pordenonese sull'incidente mortale in Veneto dove ha perso la vita un 61enne di Azzano, accanto alla cronaca di un altro incidente della strada in via Dante a Pordenone dove un motociclista è stato urtato da un'auto ed è finito in ospedale mentre in zona il traffico è andato in tilt. Altro titolo a piena pagina per i medici in fuga con l'emergenza al collasso. Nel sommario si legge che i dottori scappano nel privato mentre la regione starebbe a guardare senza fare nulla. Ancora sanità con il rebus mascherine negli ospedali. A centropagina c'è invece una fotonotizia dedicata ai remarri che hanno dilagato a Crema con 5 gol che valgono il secondo posto in classifica. Rotta balcanica, migranti fuori controllo, invece il titolo di un richiamo nella colonna di destra sopra il piedi pagina con la querela tra sindaco Ciriani e Lampi sulla costituzione di una giornata in ricordo dei morti dei regimi comunisti e quella del consigliere Conficconi su Ponte del Meduna che ancora non c'è. Oggi una giornata di cerimonie in memoria di tutti i caduti. Questa mattina alle 9 i sindaci di tutti i comuni della provincia di Trieste si troveranno davanti al municipio di Muggia per toccare alcuni dei luoghi simbolo della memoria nel territorio giuliano, tra cui il Parco della Memoria di San Dorligo, la Risiera di San Sabba, Basovizza e il Poligono di Villa Piccina. Un secondo itinerario di esponenti delle istituzioni guidati dalla vice sindaca del comune di Trieste, Serena Tonel, partirà alle 8.45 da Piazza Piccola, alle spalle del municipio, per toccare il Parco della Rimembranza e concludersi in Piazza Unità d'Italia. Cerimonia anche a Cividale, dove si anticipano le celebrazioni del 4 novembre. Alle 10 ci sarà la solenne alza bandiera presso il monumento ai caduti di tutte le guerre della Resistenza al Parco Italia, mentre alle 10.45 al Cimitero Maggiore e alle 12 in piazza della Resistenza saranno deposte corone ai caduti. Altri appuntamenti Halloween di divertimento per grandi e piccini al Teatro dei Fabbri di Trieste. Questo pomeriggio alle 17.30 torna l'appuntamento con Dolcetto Scherzetto, la festa teatrale a cui i bambini partecipano vestiti in costume a tema tra zucche, fantasmi e streghette. Ci saranno storie, giochi, musica per la lotteria della zucca e tanti dolcetti e scherzetti per tutti. A Udine invece la festa di Halloween all'insegna del cinema con una commedia irresistibilmente dissacrante, Cats Zombie contro Zombie, del regista premio Oscar Michele Hazanavicius, al cinema visionario a partire dalle 18.30. Halloween party anche ad Azzano Decimo, a partire dalle 17.30 Piazza Libertà si animerà con luci, spettacoli, allestimenti senti da brivido, con musica dal vivo, spettacoli di magia, equilibrismo, mimo e giocoleria. Infine a Prato di Pordenone lo spettacolo per bambini Chi ha paura di denti di ferro al Teatro Pileo alle ore 20:30. Torna per la terza edizione La Via di Casa al Festival dei Tre Allegri Ragazzi Morti, insieme alla celebre band pordenonese sul palco del Teatro Miela di Trieste. Questa sera si libereranno tra hip hop, rap, psichedelia, Populous, Cacao Mentale, Squarta dei Corveleno. Si inizia alle ore 20 e si andrà avanti fino alle 2. Oggi gli uffici comunali di Pordenone resteranno chiusi al pubblico, un ponte per le festività di Ogni Santi che permetterà alle casse comunali di risparmiare un po' di energia in questo periodo di bollette alle stelle. E oggi resteranno chiusi gli uffici pubblici anche in alcuni comuni della Carnia, Tolmezzo, Maro, Cavazzo Carnico e Verzegnis. Resterà attivo solo il servizio demografico del comune di Tolmezzo. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, l'edizione flash del giornale radio, a seguire il consueto appuntamento con Vueof Velindi, che parlerà di come in conseguenza dei mutamenti climatici sia cambiata la vendemmia e quali sono le caratteristiche di quella del 2022. Alle 11:20 circa andrà in onda la prima puntata di Tra le parole e il cuore, a mezzogiorno la voce di Calliope. I programmi regionali tornano poi alle 13:29. Alle 7:53 minuti e 30 secondi era l'ultima notizia, ha collaborato in redazione Emanuele Bussani, per la parte tecnica Eugenio Giuffrida, da Andrea Saulo e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.